CQ canale 10. Ande vuole, ande, muattarino, chiatta. Dove è entrato Ivan? C'è qualcuno qua? CQ canale 10, c'è qualcuno all'ascolto? C'ha le rondelle in sughero nei quattro angoli, dai. andato anche tu al canale 22? Chi c'è su 22? La gente da fuori? C'è la Lombardia, insomma, nord Italia, capito? Io me la sono fatta tutta, dal nord al sud, anche con le Madonie ho parlato poco fa. Oggi ho abitato con Sosso. A farlo arrivare a Sosso tu? Io arrivo male a Sosso. In FM sono blu. L'altro giorno abbiamo collegato a Ceri, la Lampedusa. Sì, chissà come l'ho collegato. Però no, non c'ero. Anche in banda laterale, questo pompa Parigi. Sono arrivato 9.40 in Sicilia l'altro giorno. Ciao Antonio, no, mi sono sbagliato, non era Lampedusa, è Pantelleria, praticamente sei quasi in Tunisia. Veramente hanno collegato la Sardegna. Eravamo in due o in tre qui da Sassari, ah, c'era Giulio mi sembra e qualche altra persona che non ricordo adesso. Avanti Antonio, buonasera. Campa, buonasera. L'altro giorno sono arrivato in Sicilia a 9.40, sono arrivato, dice che mi sentivo anche nel canale. Ma stavi pompando di brutto? C'avevo Gigino acceso. La bistecchiera. Stavi cucinando il cavallo, stavi cucinando, il porcetto. Monello. Stati, andata lì. Ma oggi andiamo un pochettino a potenza più normale, dai. Qui che ci attacco, voi via, scaldiamo un po' l'antenna, mica è fredda. E a me mi si è fatta l'antenna con Chirruia. Capa, arrivando i nubi, arrivando chi si mangia a cazzofa. Tedesco? Non lo senti? Ma mi sembra che sia in FM, c'è da provare a passare in FM. Attento, mangia a cazzofa! Mi non sono mangia a cazzofa, sono mangia patate. Cazzofa vuol dire patate in tedesco. Lo so, cazzofa, io chiamo mangia a cazzofa. Segnale di due arriva in FM, 1-2, basso dai. Arrivano forti, madonna, oggi c'è una propagazione assurda. Ciao Franco, ciao Natalino, ciao quasi. Ciao Luca. Comunque già, torna al discorso, come ho detto prima, c'è il telefono, devo provare in chiamata, capite, si chiude il sensore di prossimità, tutte queste cose, te l'ho già spiegato già. E va a vedere quando deve venire, veniamo e te lo farà. Intanto domani vado male ai displimi, domani se ce la faccio te lo consegno domani, sono mercoledì, martedì. Ma adesso si può togliere questa roba o no? No, adesso è smontato, ho staccato la scheda, tutto, tutti i pezzi, il connettore di ricarica, tutto, fotocamere, tutto mi ho staccato già, tutto. Luca. Ti coprono questi, aumenta un po' Natalisi, no, non verrà mai arrivi da Luca. Uso Cugiamendi, a CC, a mi senti? Sto qua arrivando 9.20, 9.30 quasi, dì, sì, ti sento, dimmi Natalisi. Asco, mi serve una basetta per la PLC 800 che me la voglio mettere qua, siccome c'ho la basetta sua che è attaccata alla macchina. E l'antenna però me la voglio mettere qua sul frigorifero, perché se no rimane senza usare questo 3009, che non lo puoi usare, almeno per ascolto sui 40 canali lo posso usare. Santari, ti coprono questi qua, è allucinante. Ho capito, la basetta PLC e boh. Sto cercando una basetta di PLC 800. Se no andrò da Fusara a vedere se ce l'ha. No. Sì, controlliamo più forti questi qua che è Natalino. Cioè, copriano anche a me, no? Tu. No, no, assolutamente, c'è qualcuno che sta chiamando da fuori. Fuoco, ma è rompito io. E lui? Come è cazzino? USA, please, QSO. Qui in Sardegna. Sarra. Allora, è vostro Sarra io, Natalino. Hai detto un attimino. Finalmente più ti intendi di me. Non ti preoccupare. Sì, cavolo. E non arrivo la Lucca, dimmi tu. Non posso aumentare più perché non c'ho niente da attaccare. Qua arrivano bassi, vabbè, non te ne abbatta, 1-2 al massimo, quindi non disturba nessuno. È perché Luca a me mi arriva, mi sembra strano che io non arrivo a lui. No, qui arrivate tutti, non ho problemi per tutti. Allora, cari, a secondo, cioè, quelli là in FM arrivano forti. L'unici che passano sono Franco e Natalia e cosa, Antonio. E io non passo. Io ti sento la fondo scala. No, qua in mezzo ai palati non entrano, ho capito. Urge K qua, se no mi stanno rompendo le scatole. Beh, adesso mi compro il King e mi rivolto video. Quello con le rotelle in campagna ne ruberai, no, io sono cazzi acidi, non me ne sbatte più un cavolo. Cosa è questa cosa? Quello che si trascina con le rotelle. Malato è, paraplegico. No, perché se no non ce la fai a pigliarlo da solo. Sto scherzando. Cazzo, attacco qui su, so cazzi. In banda laterale sono due. Attenzione, maniaca coppa! Ne hai visto un altro giorno, 5, mi sembra 5 kW. Ehi, ne ho provato uno da 6 anche. No, non l'ho mai visto nemmeno, l'ho visto così su un video. Quello gli devi impostare anche la frequenza, figurati, perché multibanda. Cazzo, come c'è la luce verde, schiacci e sono cavoli. A 220? Cavolo, si so sì, ti gioco di zendi. Bisogna mettergli la banda che è mi come l'accordatore, perché quello si accorda anche sulla banda. Ecco qua, vero un po' coraggio di Sinandani. La mappa di varia. No, questo era 28 volts, era per camion, capito? Era 5 kW per autotreno. Sì, cavolo, no, questo è 220. Addirittura ce l'avevano montato sotto il camion, nel telaio, è montato così. Uno dei primi modelli che ha fatto la ZG. 5 kW, ma dimmi tu. Sì, avevi segnalato 5 kW. Aveva guardato, cioè hanno provato lo strumento col BIRD e li superava pure, 5.100 mi pare. E io ho visto il 1.200, ho visto, ma 5.000 mai. Sarà stato qualche 1.200 modificato. Non lo so, l'aveva costruito questo qua, quello che poi ha aperto, diciamo, il negozio della ZG, allora ancora non esisteva. Da lì in poi, dopo questo esperimento, è iniziato a produrre in serie lineari, capito? Se no non sono belli quelli, solo che c'è uno che li fa, perché li autocostruisce, li vende ai radiamatori, cazzo. Questi camionetti sono facili, dai. Chi ci è rimasto? Gianni, chi sei? Gianni, Luca? Ehi, ci sono io già. tanto e dove prendi tu allora? Ma gli altri che ci è rimasto? Eravamo 3 o 4, ma non me rammento. Capa, c'è la Gianni, c'è lui e c'è la Luca. Andendi, adio! Un po', se ancora continui a fare bordello, vai! Sto pensando, non lo posso usare qua. Non c'hai la potenza? No, meno che si attacca qui su missili visivi da Gaza. In campagna c'ho anche la 380, capito? Ecco perché. Sto pensando, cazzo, non posso usarlo questo. Sì, vabbè, ci avrà varie potenze, però magari con minimo. No, scatta qua, non ce la fa. E anche qua cosa ci abbiamo? 3 kW e mezzo abbiamo in casa, così 3,7. Vabbè, ma lì su casa no, non funziona qua. Quello c'ha le valvole che sembrano bocciù. Dove tu? Ma Natalice, non lo tratti che sono andato a mare, me. Che ci scherrini già mi tu? Ecco, avanti il break! C'è un casino ovvero oggi, buonasera a tutti! È sentato qualcuno, chi? Avanti con la buonasera, chi è entrato? Buonasera a tutti, Danilo! Ciao, ma buonasera Dani! Ciao Danilo! Chi c'è qua? Antonio, poi l'altro, non me lo ricordo. Natalino, ciao Dani. Natali. Ehi. Guarda che è entrato Danilo. L'ho salutato. Forse non arrivo lì. No, già mi arrivi, solo che c'è un pochino di sovramodulazione fra di voi. Mi sovramodulate. Danilo, mi ascolti a me? Sì, sì, già ti ascolto. Natalino, ciao, buonasera. Sì, ciao Natalino. Che c'è un rompimento di canto, mi vede che prenderò dopo. Capa, ma mi senti a me? Bello, sei quasi più lontano di tutti, me. Aspetta, che c'è qualcuno che sta entrando, che? Gianni? Eia. Sei tu? Cappa. Avanti, c'è di nuovo l'alternata. Molto ne ho. Stavo dicendo, il mio microfono c'ha i piedi in su, vero? Da un centimetro. No, questo è un altro, sto provando un alimentatore, quello mi sta dando problemi. Anche la radio è diversa, la modulazione è diversa, cosa c'è? Che mai che? Una cazzo in cuova di giù c'è l'alimentatore. Dai, prendo uno di questi e vanno a una cannonata, vanno. Ho preso informazioni, ho preso quelli che costano poco, cioè così sono validi quanti quelli là, insomma norma c'è pure, perché io mi sono informato da una persona, mi ha detto tutto, da uno che se ne intende, no da un CPT, sono quasi uguali la meccanica, solo che magari è un po' bruttino da vedere, ma che me ne frega, ma per di peso 20 euro. In meccanica non c'hanno nulla, sono tutte elettroniche. Vabbè, volevo dire di componentistica, sono in chipi mia la benzina. Quelli di switching? Ehi. Sì, ne ho un paio, vanno bene lo stesso, vanno bene, caspita. Anche questo qui è 30 ampere switching, questo ce l'ho un sacco di tempo e sta sempre andando. Le mani mi dovevo tagliare, ce l'avevo di quelli tradizionali, 40 ampere me l'ho venduto. Io sto usando il vecchio, un 10 ampere della ZG, quelli, non si dice, avvolgimento, ma è un barrazzone, pesante anche tu. Infatti io avevo un 40 ampere, figurati se era pesante un trono, ma se non gli mettevo quello si busava, a chi l'apparato che avevo io, se non gli davi 40 ampere, non andava. Con questo sono portato a 5 watt, quindi lo pilota bene. Avanti Danilo. Ma io vi sento bene a tutti, solo che c'è Natalino che ci ha appena potenza in più. No, io non ho problema con tutti. Sì, sento una cosa sotto che vi portate appresso, ma è una cosa impercettibile, non dà fastidio a nessuno, io sento tutti. Questo rumorino leggerino, leggerino che si sente, questo quello che sono si sente da te, basta. Sì, sì, le stesse cose che sento io, ma sono loro che parlano sotto e sono lontani, mi sa che sono in Germania, boh. Non vuole sbagliare in FM. Chi è? Gianni sono, adesso alternata, ne ho. No, adesso no. E ho girato la fila, non agganciata. Sai che l'avevo già sentita questa storia? No, no, adesso sei perfetto, c'hai un po' di eco addirittura, hai aperto un po' di eco. C'è. Guarda che ce l'hai di nuovo, già. Sì, sì, è ritornata, più forte, poco fa era fortissima. Guarda, l'eco questo qui, bene, va, ce l'ho anch'io, benissimo, siamo l'unico senza lecca, sono io, In Sardegna, a parte non so un paese che ci sono un po' di contagi. No, reinventendo, insomma. A Rizzo sono tutti rossi. Attenzione Luca, se ascolti qua, cara. Sì, positivo, dai, ti ascolto molto chiaro, non ci sono problemi, cara. Sì, che ce l'ha anche Luca, quello lì. No, non ce l'ho più, venduto. No. Sì. Sarà un bombardiere quello lì. Questo è il suo, è nato così, c'è. Io non ne metto mai, ce l'ho, ma no, mai ne ho messo, beh, chiuda. No, appena di ecco, no, cioè, l'importante è che non disturbi la modulazione, capito? Gappa, gappa! Ora! Facciamo scaldare i motori qua! Franco, quello che ho io bene va regolato come l'avevo messo. Sì, sì, non disturba niente, si sente leggermente il reverbero e basta, l'effetto eco, proprio pulito pulito. È nato così questo apparecchio. Cazzo, peccato non c'ho i canali nel 3009, va in Noravona. C'ha 40 canali solo, è bloccato da dentro. Sono te andavi sul binario 45? No, il 3009 non ne ha eco, no, questo qui ce l'ha. Sì, ma dico, volevi andare a fare casino del 45? No, negativo, non ne metto mai io, ecco, no, non mi piace. E io ce l'avevo prima quello esterno, dai, la scatoletta esterna. Addirittura era anche amplificato, quindi mi aumentava anche la radio. E usciva una bomba, ma poi con questo microfono. E poi alla fine ha smesso di funzionare, non so più neanche dove si è finito. Forse è rimasto da mia madre, buttato da qualche parte. Lecca, lecca, Mavi. Ehi, ma usciva bene, lì, caspita. Campa, lo sai che ho visto la tua antenna? Sì, hai visto quanto è alta? Non c'è il primo piano, sì. Sono in mezzo, ma la punta arriva al cornicione. Campa. Anche non ti arrivo così forte io. Io sono a fondo scala. 9.30 sì adesso. Poi mi schiaccia? 9.3 prova. Anche di più, leggermente di più del 30. Io come vado adesso? Sto andando a 2.5. Tu sei ancora più forte. Siamo vicini, Allora, anche lui è forte, tipo dovrei attenuarmi un po' per vedere chi è più forte. Adesso aspetta che vi attenuo di segnale. Parla Natalia. Guarda il segnale 1, 2, 3, come arrivo. Adesso ti ho portato a 9, vediamo un po' avanti Antonio. Campa, guarda bene un po' come arrivo. Anche Antonio 9, però c'hai dei picchi negativi, tendi a scendere, forse si è agganciato, non lo so. Avanti, vediamo Gianni. Gianni, picchi negativi c'ho adesso. Me ne sono accorto dal strumento, dai. Ma non fa niente. Beh, io mi accorgo perché ti ho attenuato, da 9 scendi a quasi a 7. Ma sicuramente ti manca un po' di alimentazione, un po' di corrente. Ma cazzo, sono quelli che parlano in FM e me lo comprano qua. Sono quelli leggermente più forti. Però ho sentito Bergamo, città di Bergamo. Papa, salutoni la città di Bergamo, qui la Sardegna che fa chiamata, avanti! Sì, positivo, qua la città di Bergamo, faccio turno, città di Bergamo, Nord Italia, stazione Camaleonte. Avanti, passare la Sardegna, Nord Italia, città di Bergamo. Papa, che ti ascoltiamo, è che ti sono questi tedeschi che... Attenzione Bergamo, si ascolti la città di Sassari che chiama, cambio. Buonasera Sassari, con rispettive cordialità, Radio Sly, provincia di Piacenza, chiama. Cappa, Radio Sly, ben sentito anche a te, dai, qua ti sono tanti amicacci, cerchiamo di fare un po' di ordine, ti salutiamo, una persona di Paletta, poi rimango tutto l'amico Franco che farà girare, avanti Franco qua dalla città di Sassari. Sì, saluto l'amico Ennio, l'amico anche Radio Sly se non sbaglio, vediamo un po' se mi ascoltano, avanti Radio Sly. Sì, è positivo, ti sento molto bene, avanti Ennio a debole potenza. Oddio che va bene, dici qua l'amico Sly mi arriva sempre bene, qua noi ci parliamo tutti i giorni con l'amico Silvio. Ok, ti lascio l'amico Franco in Sassari, dopo mi dirai se in Sassari ci sta o lì nei paesi vicini, sono stato lì a lavorare in quella nella tua zona. Sì Ennio, ben ascoltato anche da parte mia. Sì, no, Sardegna, siamo un po' fortunati noi, siamo nati in una bella isola, una grande isola. Ti lancio avanti, vediamo un po' chi c'è in parcheggio. Danilo, ci sei? Brecco. Sì, un attimino col Brecco, sì, ci sono. Non so se mi sento un amico Ennio, l'amico del radio Sline. Un pochino difficilina da ricordare quel nome. Sì, non so se mi sentono, io li sento forte e chiaro a segnali di 9:20. Avanti. Io ho problemi adesso perché c'è un po' di USB e ci sono sempre questi in FM. Avanti Antonio. Kappa, dai! Sentite Antonio alla Sardegna, buonasera a tutti! Buonasera, dai! E vi passo anche un altro amico, vi passo, Luca avanti! Luca! Chiama la Sardegna, da questa parte Luca, nella città di Sassari, avanti chi è? Vabbè, da lì. Vabbè, lui, non ti aggiungiamo a due, uè. No, ad Antonio, se lui abbassa appena, intanto c'è la propagazione. Con la propagazione, anche con un watt, secondo come spingi la propagazione, ti sentono anche dall'altra parte del mondo. Non c'è bisogno che spingi gatto a kilowatt o a watt. Con pochi watt vai tre senza problemi con la propagazione. Come siamo noi? Perché tu stai andando un messaggio, non riusciamo a sentirti. Non riusciamo a capirti. È possibile che non riusciamo a capirmi. Luca, mi senti bene lì? Sì, ti ascolto bene, sei un po' compresso, dai. E ha salutato Luca, avanti prima. Luca, grande mano, ho conosciuto più Luca. Già l'avevo riconosciuto, c'è un bel di modulazione, un bel pieno, boh, non so da voi, ma da me molte modulazioni mi arrivano. Sembriamo negli anni 80. Anche 70, là. No, comunque sto usando il filtro, e col filtro riesco a togliere un pochino di roba di mondezza che mi arriva. Sento solamente a voi, che mi arriva oltre i segnali di 7, in poche parole, là. Perché me lo sono tarato adesso. Niente, no, tu, non è che ti gioco di rendi chissà cosa, però se tu abbassi appena riusciamo a capirti senza problemi, riesco a sentirti, però ti sento saturo, non so se riesci a capirmi. Ma te lo sai, il filtro non è B. C'ho 1, 2, 3, 4, 5 filtri io c'ho in questa radio, non è un giocattolino, qui c'è una radio digitale. Senza problemi direttamente dalle manopole. Mi stanno chiamando gli amici, forse da Piacenza. Avanti, chiamala. Attenzione, avanti poi Piacenza, avanti la Sardegna che fa chiamata, avanti. Avanti, ascoltiamo qua, avanti. Avanti Modena! Amici, un altro, Antù. Beh, chiunque sia. Antù, qua mi arriva con lo stesso segnale tuo, a 9.30. Comunque, come è aperto è sparito lui, non ti preoccupare. No, ma chiunque sia, ma non lo cerco, perché mi ha rotto le palle. Troppo buono. Iniziamo con questo giro. Che non è che sei lontano, no? Ma che pena. Che pena mi fa! Trova una bella radio, No, non vedo buffuna, vedo musica, buru. Un peccato staccarla così. È quello che dico io, un peccato. Poteva lasciare un altro po', così si riscaldava un pochino i finali. Finché il segnale non si abbassa piano piano non lo sentiamo più. Scappa, poi ne ho di sotto per i ciccati nel binare. Sicuro apparecchi a camburi sicure. Aspetta Anto che stavano chiamando nuovamente. Magnata che si è speso di radio e avete fabbricato una lingua un par a noi, avete fatto una cosa migliore. Non ti intromettere in mezzo ai discorsi dei grandi e facci parlare a noi. Infatti, lui è un bambino. Ma bambino vero è lui. Cazzo, ma quelle creature sono così. Se vogliamo il bibero, d'accordo siete? Io ho fatto il tampone del vostro. Il bibero li diamo, ma non che sono per le balle. Ma fammi il break! Forse io ci riservi a che cosa basta o fammi. Ma mattina l'ha messo. Ma pari, via la macchina che ci fa. Sono Scala. E a metà il referire in chiuso ma arriva a Santiago 6. In zone 9, dai. Sì, zona di Chivi. Vedete di vittime simili a Jens, va. Brecco. E in zona quando? Avanti il break. Avanti qua. Avanti qua. Buonasera a tutti, il profeta da questa parte. Cos'è che tu ti sei voluto? Mamma mia. Maria Claudio. Claudio, tu ci sei? No, mi è sembrato Claudio. No, no, era Gianni, era. La morte è Maria. Ciao, profeta. Ciao Franco, buonasera, ho detto roba da burutto, crocro. Va, portante, casino, propagazione, non si ne comprende nulla. Infatti, ciao Rubrofè. Poi ammortizzatori, poi ammortizzatori anche su Gozo, mi. Metti il cuscino a destra dello smitter, mi, così non si faccia la lancetta. Io di cui ci ho bisogno di che cosa battoffa. Non solo Bappoppa, anche Bubba Prua. Ma sa chiedere. Ma io chiamo due negri, tu profe. Ehi, buonasera a tutti. Luca, Natalino, Franco e poi boh, non so se c'è qualcun altro. Mi sentite, sì? Sì, auguria, voglio lì. Auguria. Ci sentiamo, ci sentiamo. C'è anche Danilo, Gianni, Gianni. Solo che ogni tanto si mette questo parassita a disturbare con la musica, non è più bello, capa! Grande Rubroffa e forse per l'ammortizzatore in su Smitter. Non è qua, no, Fra. Non so, arriva leggermente più basso di te. Sto dicendo, è un'altra persona, non è quello, no? Perché io sono in mezzo. Se sarebbe stata quella persona lì. E lui non passa. Invece mi ha passato nei confronti di Roberto, quindi non è qua. Avanti col break. E 8 è adesso, con le rifi chiuso a metà. Se no arriva sì. Mandi la musica, oppure uno fa chiamate tu mandi la musica, Beh, ci dispiace per gli amici che fanno chiamata la Tardegna, ma ci abbiamo qua un problemino importante. Ehi, ci ha chiamato Modena e Catania e poi stavano continuando a chiamare, solo che c'è questo cosa portante, non si capisce niente, non ci fa sentire niente che è diverso. Vedetemi a Tommaso, a Giulio Cesare e a... mamma mia, mi sono dimenticato l'assedio. Vedetemi tutti gli amici di Lisella Cazzo e a Gigi Vulcano. Cappa positivo, dai, ci dispiace, chiediamo scusa anche da parte sua. Un abbraccio a tutti comunque, alle prossime, magari migliori condizioni. Ok, dai, da 350 Salvatore sulla provincia Catania ti saluta. E forse abbraccio per tutti gli amici lì con la Sardegna. Buona serata. Ciao, un abbraccio anche alla Sicilia, ottima isola. Avanti, Natali. No, 9.30 è l'amico della Sicilia, 9.30. È bello forte l'amico della Sicilia, sono in QRX, non mi piace stare quando c'è la portante. Vi saluto tutti, un abbraccio anche agli amici di fuori. Non è vicino, non è qua dietro l'angolo. Come qua in Sardegna, in poche parole noi siamo parte opposta della Sicilia. Poche parole siamo le altre teste dell'isola, dai. Guarda, sì, anche te arrivi bene, Anche te arrivi bene qua, mi fai un Santiago di 7 e Cillante 8, la radio Super 5, ma io vado un pochettino caricato, vado 1900 watt in antenna, Ciao Sicilia! Beh, l'impiglio! No, qua mi arrivi a 9.20, a volte anche i picchi di 9.30, senza problemi. Attenzione amico della Sicilia. Che schifo cazzo, che schifo, veramente che schifo. Avanti, avanti, avanti, ti curo, guarda chi vuole fare un cazzo, che schifo. Ciao Cra, pure tu te ne sei accorto che fanno schifo a volte le persone che ti mettono a portante? Cazzo, ma è annuale, cazzo, hai visto, cazzo, non riesci a fare di Luca a terra, beh? Ciao Claudio. Che schifo, veramente che schifo, veramente che schifo. Non mi sono pentito di non aver messo niente, cazzo, ma avevo goduto, che schifo, io non può manco ascoltare, cazzo, che schifo. Infatti uno non può fare manco un QSO, con la propagazione che c'è in questo periodo, che ti mettono la portante fissa, cazzo, non riesci a capire niente quello che ti stanno dicendo. È allucinante la gente, proprio non sa cosa fare, ma io dico, se non sai cosa fare, dato che stai ascoltando in radio, perché so che stai ascoltando, buttati dal ponte, che fai prima, non ti mettere in mezzo ai discorsi nostri, vai da un altro canale, vai e ucciditi, vai e avvelenati, lascia stare la portata che stiamo facendo un QSO, basta. Però anche queste tre, scusatemi un attimino, questi tre bla bla bla, vedete quel cazzo di macchina, quello che uscimmo, lo troviamo, cazzo te lo faccio vedere io come si pensa un cristiano, quando io lo trovo e so che è lui, ti do questa sussa che vedi, ti faccio vedere come pensa un cristiano, ti faccio vedere come pensa un cristiano, ti faccio vedere. Quello è buono farlo, non fare bla bla bla, quello è buono. A pugni a caso, fissamente a palici da mezzo al guru. Così, qua a puntiglia lo fanno, cercano di introdursi quando stanno facendo un QSO a rompere le scatole. Vabbè là, lasciamoli giocare bambini, perché questi qua che fanno così sono solamente bambini. Attento Salvatore, ti ascolti doppio rum cambio. Cappa forte e chiaro Salvatore, dai, ore, dai. Doppio rum che ti super cordializza. Saluto anche Claudio, dai, che è tratto, tratto. Speriamo che ci lasciano modulare, perché qua c'è uno che mette la portante e non si riesce a capire nulla, per divertimento. Quindi ti salutiamo tutti dalla Sardegna, avanti Salvatore. Amico Claudio, vediamo un po' se ti ascolti. Sì, dai, Claudio, vado con la speranza che mi ha fatto, che sono parato, non sono con quello originale, sono modificato, perché sono cambiato.